Mercoledì scorso la piccola Margherita ha avuto per la seconda e ultima volta in vita sua l'onore dei titoli in prima pagina sui giornali. L'ho avuto, poveretta, perché è morta. Come un mese prima aveva goduto di quel dubbio privilegio semplicemente perché era nata. Come certamente ricorderete, Margherita era la primogenita, se così si può dire, degli 8 gemellini, li chiamano tutti così, nati prematuramente a quella signora che si era sottoposto, sotto la guida di non saprei dirvi quale luminare, a una cura di fecondità. Nella sua breve vita, che suppongo non sia stata immune da sofferenze, non ha fatto nulla che giustificasse l'interesse dei giornali e di chi li legge, ma sono bastate le condizioni della sua nascita per farne per poche settimane una protagonista della cronaca. Nasce uomo a fatica, ci ricordava parafrasando Lucrezio Leopardi, ed è rischio di morte il nascimento. Ahimè, e che un bambino, soprattutto se prematuro e nato da un parto plurimo, sia a rischio di vita, non è una novità per nessuno. È una delle possibilità di questa nostra vita precaria. Una volta, fino a pochi decenni or sono, era una possibilità tanto frequente da ricadere praticamente nella norma, e si sopravviveva più che altro per caso, e l'incidenza della mortalità perinatale nelle statistiche abbassava la speranza di vita a un livello che oggi ci sembrerebbe assurdo. Una quarantina di anni si andava bene, non di più, nell'Europa del primo Novecento, molto molto meno altrove. Poi il progresso delle condizioni igienico-sanitarie, che dopo tutto fa parte di quel progresso con la maiuscola di cui è tanto di moda oggi parlare male, ha cambiato le carte in tavola. Ne sono nati nuovi problemi, naturalmente, come quello del sovrappopolamento, ma sono state eliminate in compenso una quantità di occasioni di sgomento e di sofferenza. Tuttavia, che quello della nascita sia un momento pericoloso per la madre e i figli lo sappiamo tutti. Medea, che era Medea, non una mammoletta, affermava in un passaggio euripideo di altissima drammaticità che avrebbe preferito correre qualsiasi pericolo e qualsiasi sofferenza in guerra purché le fossero risparmiati quelli del partorire. Certo, il caso di Margherita e dei suoi fratelli, quattro dei quali sopravvivono ancora e speriamo che siano dichiarati presto fuori pericolo, non è privo di interesse generale. Poteva rappresentare l'occasione per un dibattito su una serie di problemi importanti, valoristicamente parlando. Che senso ha volere a ogni costo la maternità a rischio della vita propria di quella dei nascituri? Non è quella di far nascere delle creature in simili condizioni una forma piuttosto crudele di accanimento medico? Che cosa si può aspettare chi affronta questo azzardo in termini di solidarietà e assistenza da parte dei propri simili? E così via, no? Ecco, io sarò distratto, ma nella saga mediatica montata sul caso degli 8 gemellini, è una bagarre che soltanto in questi giorni, di fronte a un seguito di esiti luttuosi, si sta smontando, e non mi sembra di aver colto un grande interesse per questi interrogativi. La faccenda è stata trattata dapprima come se fosse un record da registrare, nel senso che le gravidanze a 8, pur non ignote alla letteratura medica, sono molto rare, per fortuna. E poi come l'occasione per spremere fino all'ultima goccia di patetismo. E la madre, per esempio, non ha mai avuto il bene d'essere definita con il suo cognome e con l'abituale epiteto di signora. È sempre stata per tutti mamma Mariella, che è un trucco dal sapore dolciastro per stabilire tra lei e il pubblico un'intimità fasulla che alla povera donna non sarà certo servita molto, ma che in compenso autorizzava chiunque a seguire con impudico voyeurismo le sue sofferenze. I bambini sono sempre stati spiati dal punto di vista sommamente cinico del ce la faranno o non ce la faranno, come se fossero atleti alle Olimpiadi della sopravvivenza. Della privacy degli adulti e dei bambini coinvolti nessuno si è mai dato il minimo pensiero. Un dramma umano e morale, in realtà, è stato ridotto alle dimensioni di un banale dilemma di cronaca. Il dolore di una certa quantità di esseri umani è stato esibito come oggetto di consumo, è stato offerto a un pubblico inconsapevolmente vampiresco perché ciascuno, immedesimandomi per un attimo nella tragedia altrui, potesse compiacersi dall'essere in definitiva fuori. Personalmente non credo che i giornalisti che hanno seguito la faccenda fossero tutti dei cinici senza cuore con una foresta di pelo sullo stomaco. Suppongo che anche loro siano quale più quale meno delle brave persone, in grado di rendersi perfettamente conto del male che possano fare e della bassura a cui portano una professione il cui livello morale non può dirsi già in sé eccelso. Ma le regole del gioco sono quelle e a quelle bisogna tutti attenersi. Ma chi lo dice in fondo?